Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Nove e trentuno minuti di questo 11 aprile, lunedì, ripresa della settimana che naturalmente ha visto al fine settimana con gli occhi puntati sui risultati per la corsa all'Eliseo del primo turno. Si era paventato negli sondaggi precedenti un testa a testa tra Macron e la Le Pen, cioè tra la destra e l'estrema destra. Beh, sembra in qualche modo avvantaggiata la destra, per cui Macron avanti, Le Pen più lontana. Anche se devo dire i dati dello scrutinio elettorale concreto sono meno generosi per Macron di un punto più o meno rispetto a Le Pen, rispetto a quello che erano gli exit poll. Comunque ci sono già le prime dichiarazioni di voto, di endorsement per il secondo turno. Dice, leggo dal Corriere, al presidente andrà il sostegno di Verdi e Repubblicani, ma i voti antisistema arrivano al 50%. Naturalmente ancora una volta col voto antisistema, come in Italia, viene così sistemato tutto ciò che non è di destra o di centro. Questo è quanto, ma vediamo in passaggio nei titoli generali. Per esempio la Libero, la rivincita della Le Pen che sfida ancora Macron. Il Giornale guarda Le Pen, il Libero guarda con Le Pen con interesse. Il Giornale, la guerra premia Macron. Mentre andiamo alla pagina della Verità, Macron inseguito dalla Le Pen, Zamour di traverso, un flop il super razzista Zamour, che sembrava essere in qualche modo la carta vincente anche sulla stessa Le Pen, invece ha rimediato un 7%, davvero basso. Eliseo, la spinta per Macron, il Messaggero, il Mattino, abbiamo Macron stacca Le Pen sull'ivo d'Europa e via dicendo. Quello che lascia un po' i commentatori stupiti, e non so perché non è certo la prima volta, è il grande successo del candidato della sinistra, ovvero sia Mélenchon, che raggiunge il 21% dei voti, nonostante che venisse dato per superato, come si fa un po' dalle nostre parti, dalle vicende della politica. E allora dice il fatto quotidiano, il contropiano, Francia, il solito ballottaggio, Mélenchon sfiora il colpaccio. Snoppato e infangato dalla grande stampa italiana, Jean-Luc Mélenchon, guida carismatica della France Insoumise, ha sfiorato il suo passo su Marine Le Pen, che andrà al ballottaggio con Emmanuel Macron come 5 anni fa. Questo è quanto. E tant'è che il Fatto Quotidiano dice nel suo commento, fin dalla prima pagina racconta: la Francia, Macron al 28, Le Pen al 23, sinistra al 30, divise ed escluse. Naturalmente le sinistre qui che disperde il voto sono i Verdi, i socialisti, quindi si inverte un po' la canzone del voto utile che si è tanto cantata e si canta ancora in Italia. Comunque Macron avanti oltre l'attesa, dice il Giornale, sarà ballottaggio con Le Pen, fermiamo l'estrema destra. Emmanuel scongiura il flop, ma Marine ci crede ancora. È una Francia che non è affatto tranquillizzata da queste elezioni, non solo perché i motivi sociali per cui Macron è più che deficitario rimangono tutti, ma anche si verifica, e come dice, vista da destra, Jean-Paul Fitoussi, ma neanche tanto da destra, ma Macron ha sbagliato molto, ora si scusi e faccia le riforme. In questa analisi compare dal Giornale, dice l'economia, la politica sociale è stata un disastro, scrive, serve un piano per il futuro, lui mai in piazza perché teme i fischi. Quindi proprio è un candidato di palazzo, di quelli che sono chiusi nel palazzo e non si schiodano mai da lì, e a dimostrazione che la situazione è ancora calda, non un calore che ricorda molto i gilet gialli, gilet jaune, perché leggiamo subito all'indomani, anzi presso le elezioni, incidenti nel centro di Arana e Lione, dove diverse centinaia di persone sono radunate dopo il risultato del primo turno delle presidenziali. Circa 500 persone, notizie che arriva adesso in redazione, per più giovani, hanno marciato per le strade del centro di Rennes cantando slogan anticapitalisti e antifascisti. La rete urbana è stata distrutta, e finestre delle filiali bancarie danneggiate, in una piazza del centro vengono date le fiamme anche attrezzature edili. La polizia è intervenuta per disperdere la folla e i vigili del fuoco hanno spento il rogo. Questo è quello che, che ci passa il convento delle agenzie. Sorpasso mancato, torno a leggere dal Corriere. Ma Marini insiste: noi metteremo in ordine la Francia. Champagne e delusione, l'impresa non c'è stata. Ma c'è il problema: chi deciderà? Il presidente? Perché certo, prima dell'indicazione dei voti, secondo quelle non dovrebbe esserci problema per Macron, ma sappiamo quanto poco in Italia come in Francia l'indicazione dei partiti poi abbiano presa sugli elettori. Comunque Bruxelles, occhio al secondo turno, referendum sull'Unione Europea su Putin. Beh, se fosse così l'Unione Europea avrebbe perso, perché i voti contrari all'Unione Europea sono di più di quelli favorevoli. Comunque, siccome vince la maggioranza relativa, può darsi che vinca il Bruxelles. Gli antisovranisti, scelta fondamentale, silenzio dei popolari, che tifavano Pécresse. Questo è i commenti tornano. Macron ha perso smalto di energia, ora deve ricordarsi com'era 5 anni fa, dice Raffaele Lorca, esperto in comunicazione della Fondazione Jean Law, autore di saggi molto apprezzati su Macron. Quindi un antico estimatore di Macron, adesso un po' raffreddatosi. Ma dicono dice Mélenchon, noi i voti l'ultradestra non li daremo mai. Sta di fatto però che a Le Pen anche un voto, lo stesso Mélenchon che lo dice, ma c'è il dato, come racconta il Domani, che la rottura degli argini, perché il titolo è questo: Macron è in testa ma gli argini a Le Pen sono sempre più fragili. Spostando sempre più a destra la sua retorica e le sue politiche, Macron ha per primo contribuito a erodere il cordone sanitario che adesso speri l'avanzata di Le Pen. Ci fai pentire di averti votato, gli hanno detto alcuni intellettuali come Olivier Roy, quando alla fine del 2020 avrà accetto col sarcosiano ministro degli esteri Darmanin. Macron ha messo in campo una serie di politiche securitarie come la legge sulla sicurezza globale. Dalla destra estrema il presidente ha preso anche il cavallo di battaglia dell'immigrazione a ridosso del voto, è arrivato ad ammettere di non aver fatto abbastanza per contenerla, promettendo quindi di fare di più, cioè di spostarsi ancora più a destra, ma a rendere sempre più permeabile il cordone sanitario ha contribuito anche Eric Zemmour, spostando ancora più a destra gli estremi dell'asse politica, ha fatto apparire Le Pen come un'alternativa moderata rispetto a lui. Infatti la signora Marine Le Pen ha dismesso il manganello e ha indossato il doppio petto. Ma sempre dal Domani, su questa volabilità del voto, è una situazione drammatica per la sinistra francese, appunto. L'ecologista Jeannot ha ottenuto il 4,5%, quindi questo è ormai è disperso. La sindaca di Parigi, socialista, praticamente non esiste più. Allora, cosa farà i suoi lettori di Insoumise, quelli di Mélenchon? Più volte ripetuto dopo la sconfitta, nessun voto dovrà andare a Marine Le Pen. Recenti sondaggi indicavano che tra i suoi elettori l'astensione potrebbe essere alta, ma anche un 20% dei voti potrebbe ripiegare sulla Le Pen. C'è un discorso che succede anche in Italia: il proletariato lasciato a se stesso fuori dall'agenda della politica dei grandi partiti, naturalmente cerca una copertura, se non la trova a sinistra magari va a cercarla anche nella Lega in Italia o nella Meloni in Italia o nella Le Pen in Francia. E vediamo anche sulle pagine della Stampa e corsa all'Eliseo, Macron e Marsh. Il presidente vince al primo turno e stacca di 5 punti Le Pen, adesso riunire tutti i francesi. Exploit della sinistra populista di Mélenchon, spariscono i socialisti gollisti ai minimi storici. Sovranisti fermi al 30%, leggiamo a pagina 3, c'è spazio a sinistra. L'economista commenta: Zemmour ha fatto sembrare più moderata Le Pen, la partita non è chiusa, gli elettori vogliono un'offerta progressista. E poi i commenti di Emmanuel Macron: non è ancora finita, tenderò la mano a tutti quelli che vogliono lavorare per la Francia. E di Marine Le Pen: bisogna riunire i francesi intorno a un grande progetto nazionale e popolare. Intanto in Italia Salvini: Marine non è finita, e Letta: Putin tifa per la Le Pen. Queste sono le due dichiarazioni. Il leader del Carroccio potrebbe andare a Parigi per sostenerla. Matteo Salvini: credo che i voti di Mélenchon non andranno a Macron, è superato lo schema destra-sinistra. Mentre Enrico Letta, che commenta: sarà di nuovo un confronto tra europeismo e nazionalismo, Putin tifa nazionalismo. Vediamo anche dalle pagine della Repubblica. Macron avanti, nulla è scontato, sarà ballottaggio successo con Le Pen, al primo turno il presidente in vantaggio con il 28,2%, mentre Le Pen al 23%. Alta l'astensione, un elettore su quattro non ha votato, non è stato un testa a testa, ma la vera campagna inizia ora. E il capo dell'Eliseo, c'è in gioco il futuro della Francia e dell'Unione Europea, dichiara. E poi il personaggio a pagina 3 della Repubblica, Marine mai così in alto, fa volare l'estrema destra e invoca scelta di civiltà. Tutta la Francia ormai chiama per il nome, e il politologo Geoffrey che afferma è diventato un personaggio familiare. Andiamo avanti sulle pagine di Repubblica, a pagina 6, brava Le Pen, la Lega applaude, ma aveva puntato sul ribaltone. Salvini dice: è stata coraggiosa, è un'amica, mentre Conte: sono sensibile a temi posti da Marine, però sono lontano dalla sua visione politica, mentre silenzio per quanto riguarda Fratelli d'Italia. L'ombra sovranista francese in retroscena, pagina 7 di Repubblica, preoccupa anche Draghi, che ora teme Salvini e Conte. Il presidente del Consiglio, che sarà oggi in Algeria per il gas, è convinto che le mosse di Lega e Movimento 5 Stelle possano saldarsi affossando il governo. E vediamo anche sul resto del Carlino, apriamo con pagina 2, Macron tira un sospiro di sollievo, ma al ballottaggio la partita è aperta. Il presidente, abbiamo visto, vicino al 28%, precede di 5 punti Marine Le Pen, data alla vigilia in forte rimonta, sorprendente 22% per invece il populista di sinistra Mélenchon, sarà decisivo. Spariscono socialisti e gollisti. Attenti al populismo di sinistra, Marine potrebbe pescare voti lì. Secondo l'analista francese Coutier, la leader nazionalista ha un bacino di recupero maggiore del rivale. E poi ci sono, sono riportati sempre i commenti del segretario PD Enrico Letta e di Matteo Salvini. E per quanto riguarda le pagine del resto del Carlino, poi in pillole, l'estrema destra si ricompatta, Zemmour dice ai suoi elettori di schierarsi con Marine. E allora chi vincerà il secondo turno? Macron, la Marine Le Pen? Beh, l'uno o l'altro, noi lo diciamo con, in francese con Brel e in italiano con Gaber. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, j'ai la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi souffre, moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de... I borghesi sont tutti dei porci, più sono grassi, più sono lerci, più sono lerci e più c'hanno i migliori. I borghesi sont tutti. Quando ero piccolo non stavo mica bene, ero anche molto magro, avevo sempre qualche allucinazione. E quando andavo a scuola mi ricordo di quel vecchio professore, bravissima persona, che parlava in latino ore e ore. Dopo un po' che lo guardavo, mi si trasformava. Sì, la bocca si chiudeva stretta, lo sguardo si bloccava, il colore scompariva. Fermo, immobile. Di pietra. Sì, tutto di pietra. E io vedevo già il suo busto davanti ad una aiuola, con su scritto: Professor Malipiero, una vita per la scuola. E chissà perché, anche durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone. I borghesi sono tutti dei porci, più sono grassi, più sono lerci, più sono lerci e più c'hanno i migliori. I adesso che son grande, ringrazio il Signore, mi è passato ogni disturbo, senza bisogno neanche del dottore. Non sono più ammalato, non capisco cosa mi abbia fatto bene. Sono anche un po' ingrassato, non ho più avuto neanche un'allucinazione. Mio figlio mi preoccupa un po'. È così magro. E poi ha sempre delle strane allucinazioni. Ogni tanto viene lì, mi guarda e canta. Canta una canzone stranissima che io non ho mai sentito. I borghesi sono tutti dei porci. Più sono grassi e più sono lerci. Più sono lerci e più c'hanno i milioni. I borghesi sono tutti. Se è capitato anche a Molinari che suo figlio, il diario di Repubblica, l'abbia visto e gli abbia fatto questa canzoncina. Comunque procediamo, perché sì, si domanda quanto nel voto francese sia contata la questione guerra, quanto siano contate le questioni sociali in Francia, quanto l'uno quanto l'altra. E allora andiamo direttamente, come dice la mattina, alla vicenda sulla guerra, sul territorio. Allora, i russi in marcia sull'est, dice il Corriere nella cronaca bellica, missili lanciati su Dnipro. Nelle aree cosiddette liberate dalla presenza degli occupanti si scoprono ancora decine di cadaveri civili trucidati. Ai giorni si attendono le battaglie decisive nel Donbass. Nel frattempo, questa mattina, Kiev, secondo l'ufficio strategico dell'esercito russo dell'ucraino, è iniziata l'offensiva in Donbass. Quindi i russi stanno accumulando le forze, ha detto Denisenko, rappresentante dell'Ucraina. Sì, non ci sono ancora le grandi battaglie di cui si parla tanto negli ultimi giorni, ma in generale potremmo dire che l'offensiva è già iniziata. Denisenko ha segnalato l'esplosione nella notte nella regione di Dnipro, e abbiamo visto la Corriere, ha detto che anche il bombardamento di Kharkiv, secondo città ucraina, è proseguito. Questo è quanto si legge dagli aggiornamenti di questa mattina, che poi ci portano anche ad altri spunti, che sono quelli che vediamo arrivare dal giornale. Per esempio, sempre sul terreno di guerra, il convoglio russo e le bombe, parte l'operazione Donbass, poi ci sarà l'incontro Zelensky-Putin. Già in movimento una colonna di 12 km di tank russi. Dnipro, colpito l'aeroporto, sembra distrutto l'aeroporto di Dnipro, che è la terza città del paese. Kiev, tavolo tra 2 o 3 settimane. Mentre i russi hanno fissato la fine della guerra al 9 di maggio, non si capisce bene con quali criteri, comunque questo. E poi abbiamo le violenze sui civili. Dopo quelle di Bucha vengono altri paesi, in qualche modo si scoprono, si dice, fosse comuni o torture di civili inermi. Naturalmente in questo caso abbiamo la voce degli ucraini, sarebbe forse il caso, proprio per accertare la quantità e la qualità delle responsabilità, di una commissione indipendente di paesi assolutamente neutrali in questa guerra, perché è ovvio che ogni parte, da una parte all'altra, tenderebbe ad aumentare le colpe altrui per aumentare anche le proprie necessità belliche. 6.000 crimini di guerra, così il governo ucraino va raccogliendo su internet l'archivio dell'orrore. Chi invece è sicurissimo che la colpa è di Putin, guarda un po' la Casa Bianca. L'atto d'accusa di Washington è Putin che ha dato l'ordine di brutalizzare i civili ucraini. Il consigliere per sicurezza nazionale Blinken, lui è responsabile dei crimini di piano USA per inviare altre armi all'Ucraina. Ogni volta che aprono bocca inviano armi all'Ucraina, quelle degli Stati Uniti d'America, sta di fatto che evidentemente sono nella testa di Putin e sanno perfettamente cos'è successo, anche perché c'è la necessità di allargare l'alleanza atlantica, e allora truppe NATO stabili ai confini dell'est della NATO, la nuova normalità per la sicurezza europea. Noi questa nuova normalità non la vogliamo, perché è una normalità di guerra. E la Finlandia si avvicina, come dice anche il Sole 20, il Fatto Quotidiano, truppe fisse NATO ai confini russi, Zelensky vuole trattare con Putin. Il segretario Stoltenberg evoca, tra l'altro in agosto sarà in scadenza, e Vox Populi vorrebbero al suo posto Draghi, che che sarebbe scappatizzo dal governo italiano, ma chissà, rumors, vedremo. Il segretario Stoltenberg evoca una forza militare permanente presente ucraino a sfruttare l'opportunità. Quindi sempre probabile una battaglia sud, lo sanno tutti. A Chernobyl spariti 133 campioni radioattivi. Su Chernobyl c'è questa cosa drammatica, l'allarme di Chernobyl, perché viene segnalato dal giornale, nuovo allarme a Chernobyl, rubate le sostanze letali, pericolo bombe sporche. Mosca e Kiev si accusano a vicenda per la guerra chimica, ma spunta una terza ipotesi, blitz di un gruppo terroristico. Gli esperti usano le armi radiologiche, sarebbe devastante. Più che altro, per quello che si sa adesso, c'è di certo è che molti militari russi sono ricoverati in ospedali di Bielorussia per contaminazione, perché avrebbero scavato a mani nude delle trincee, rimuovendo quindi la terra ancora impregnata di radiazioni. E veniamo invece al Fatto Quotidiano, che parla dell'Ucraina, perché l'Ucraina ha due killer, uno sicuramente Putin, l'altro sicuramente è il Fondo Monetario Internazionale. La cura, infatti, racconta Francesco Lenzi dell'FMI, Fondo Monetario Internazionale, e la flebo dei prestiti, così è crollata Kiev. Dal 2004 al 2008 ha avuto una grande espansione di boom, perché ha avuto un sacco di prestiti per finanziare una spesa pro capite molto aumentata, e qui c'è precipitata nel baratro del debito, che poi l'ha strangolato. Dopodiché è venuta la guerra, che ha dato il colpo finale. Questo è il senso del racconto di Francesco Lenzi dal Fatto Quotidiano. Il paese oggi in default non si è mai ripreso dalla bolla finanziaria del 2008. Ha dovuto scegliere tra l'austerità del fondo e i ricatti russi. La guerra, appunto, è il colpo di grazia. Allora cosa serve, secondo Lenzi? L'Ucraina è tenuta in piedi dai fidi internazionali, si avvia a perdere il 30% del prodotto interno lordo. A guerra finita servono capitali, un taglio del debito o sarà il tracollo. Ma noi sappiamo, che l'abbiamo visto in Afghanistan, che a guerra finita gli americani sono bravi a lavarsi nelle mani. Vediamo sulla stampa: trincea Donbass, distrutto l'aeroporto poi di Dnipro. Sulla prima linea davanti all'aeroporto di Donetsk, i carri russi avanzano, sarà qui la resa dei conti. La nuova offensiva potrebbe puntare a prendere il controllo su tutta la regione. E il reportage, sempre dalle pagine della stampa, i torturati di Vorzel, le ferite del villaggio a ovest di Kiev dopo gli orrori dell'occupazione, uccisi i civili e usati come scudi umani, figli massacrati davanti alle madri. E questo è per quanto riguarda la stampa. Poi vediamo a pagina 11 i deportati, 2000 bambini ucraini trasferiti a forza in Russia, i minori sono stati prelevati dagli orfanotrofi, altrettanti sono scomparsi, la Duma sta preparando un regolamento di adozione semplificato. E sempre per quanto riguarda il fronte internazionale, invece vediamo la diplomazia, Zelensky difficile trattare, gli Stati Uniti inviano più armi, Kiev vuole prima respingere l'assalto al Donbass, russi criminali, il cancelliere austriaco da Putin e Stoltenberg, basi permanenti a est, si fanno agitare le acque del Mar Nero dove la NATO ha rilevato mine russe. L'Unione Europea punta alla vittoria ucraina, Borrell ha promesso aiuti ed equipaggiamenti. Mentre a pagina 13 della stampa leggiamo che con l'attacco Putin ha creato il mito fondatore dell'Ucraina. Prima della guerra Kiev era terra di politici corrotti e oligarchi di serie B, ora si respira l'eroismo. E vediamo che Zelensky era un leader discusso, il conflitto invece lo ha cambiato, mentre lo zar ora ha bisogno di un nuovo simbolo, noi russi soli contro il mondo. Vediamo anche il reportage sulle pagine di Repubblica, i blindati di Mosca verso il Donbass, l'assedio scatena il grande esodo, migliaia di ucraini cercano di sfuggire all'imminente offensiva russa e ora sabotaggi e cyberguerra, poi così partigiani bielorussi aiutano la resistenza, cellule segrete di cittadini collaborano con Kiev per bloccare le operazioni russe. Questa è la storia riportata a pagina 11 di Repubblica. Le vittime invece, la pioggia svela i morti, c'era una fossa comune a Buzova, torture in chiesa, si moltiplicano le denunce di orrori nelle zone lasciate dai russi. L'arcivescovo maggiore di Kiev, sevizie in parrocchia. La conta dei decessi ha raggiunto la quota 1222 solo nella regione della capitale. E poi vediamo a pagina 13 di Repubblica, i crimini contro i civili erano pianificati, Putin ne è responsabile, questo è Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece sempre la guerra, la protesta e il rocker diventato soldato che ha riunito i Pink Floyd, canto e lotto per la libertà. È una star in Ucraina e la sua canzone ha spinto il gruppo inglese a risalire sul palco. E allora sull'aspetto dell'Europa che cambia, ed è abituarci a un'altra Europa, ci hanno detto, conferma anche Paolo Valentino dal Corriere, gli assetti, svolta della Finlandia, addio neutralità, ora bussa alla NATO. In un'altra nazione la guerra in Ucraina pone un'alternativa, un'autentica questione esistenziale. Se Helsinki, cioè se la Finlandia, facesse il passo, la Svezia la seguirebbe, secondo il commento del Corriere. Ma veniamo invece alla riscrittura macartista della storia. Cominciamo con Vittorio Macioce dell'antiatlantismo, perché secondo Macioce il giornale su cui scrive chi è contro la NATO è automaticamente filo Putin, perché bisogna schierarsi o di qua o di là, non c'è una terza via. Quelli che vogliono vivere a Mosca, quanto costa l'antiatlantismo? E la domanda è quella che io sentivo farmi anche da piccolino, quindi sono 60 anni che mi insegue. C'è una domanda che sembra scontata, ma in realtà non lo è. Vi piacerebbe vivere a Mosca, Pechino, Pyongyang, Teheran, Riyadh, Kabul, in quel che resta di Hong Kong, ma pure Istanbul, Il Cairo, Caracas, o con un viaggio nel tempo nelle ferite sempre aperte di Buenos Aires o Santiago? È qualcosa che prima o poi ognuno di noi dovrebbe chiedersi, quando sacramenta contro i valori dell'Occidente, quando ci strappa le vesti, quando rimpiange le ore più buie del Novecento, quando dice che quella storia dell'Apollo 11 sulla Luna è solo una messa in scena, e continua il minestrone. Naturalmente il Vittorio Macioce confonde il fatto che siamo più ricchi e quindi viviamo meglio col fatto che siamo migliori. E perché siamo più ricchi? Perché è una vita che sfruttiamo il resto del mondo. E quindi, come dire, voi preferisce nascere ricco o nascere povero? Questa è la domanda che si pone. Ma ciò ci dice, beh, chiaro, meglio avere una moglie ricca e simpatica, una moglie brutta e antipatica, diceva l'ospite di Renzo Arbore. Questa è la grande analisi che fa Macioce per dire, sei ricco? Un po' come quando i gentiluomini del Settecento, non ero migliore perché ero migliore, ero migliore perché viveva meglio, e quindi un gentiluomo perché era più elegante, più garbato, più forbito, era comunque meglio di un pezzente. Questo era il concetto che si avanza in questa revisione così è sì, imperialista in termini più corretti della storia. Abbiamo quindi il Senato italiano che ha approvato senza voti contrari l'istituzione, primi firmatari due deputati della Lega, guarda caso, dell'ennesima data memoriale del calendario civile, la giornata nazionale della memoria del sacrificio degli alpini. Il fine, cito la legge, è quello di conservare la memoria dell'eroismo dimostrato dal corpo d'armata ad alpino nella battaglia di Nikolajewska durante la seconda guerra mondiale, nonché di promuovere il valore della difesa della sovranità e dell'interesse nazionale. Dice Montanari, che leggo, da cui leggo dal Fatto Quotidiano, non ho nulla contro gli alpini, mio nonno materno ha presieduto a lungo la sezione fiorentina dell'Associazione Alpini Nazionale, ma sceglie di fissare quella giornata al 26 gennaio, l'ennesima mossa revisionista, ora con l'aggravante del nazionalismo, e non tanto perché è fin troppo evidente la volontà di mettere ancora più tra parentesi il giorno della memoria del 27 gennaio, ma soprattutto perché si è scelto a celebrare la data della battaglia di Nikolajewska, episodio terribile della terribile ritirata di Russia, esalteremo così l'eroismo dei nostri alpini al servizio del nazismo e del fascismo che vollero la scellerata campagna orientale. Celebreremo l'interesse nazionale con il ricordo di una guerra folle di invasione contro un'azione che oggi vogliamo di nuovo pensare come nemica. Così, invece di contestare il sanguinario nazionalismo del despota Putin, invasore dell'Ucraina, risuscitiamo i fantasmi del nostro, facendo in più un grave torto a quei soldati degli alpini tra loro che reagirono scientà alla guerra fascista sviluppando un antinazionalismo internazionalismo. Anche perché gli alpini, quelle famose carponi di cartone, furono mandati come carne da macello in quella vicenda a massacrare il popolo russo. E ora oggi noi ci stracciamo le vesti contro l'invasione di Putin sull'Ucraina, celebriamo la giornata dell'invasione dell'Italia sulla Russia. Vedete come tutto, è speculare. Ma a proposito di massacri lontano dei riflettori, mi sposto fuori dall'Ucraina e vado in Mali. Mura l'ombra della terrificante armata Wagner di Putin nel massacro dei civili. È un'indagine ONU. Rémi Cairaillol dal Fatto Quotidiano. Per Human Rights Watch, che ha ascoltato decine di testimoni, l'operazione contro gli estremisti islamici avviata da eserciti e miliziani russi è stata eseguita in modo indiscriminato, causando almeno 300 vittime. La Wagner, questa milizia paramilitare, conta circa 6.000 uomini, 1.000 sarebbero quelli che partecipano oggi alla guerra in Ucraina. Le testimonianze in Mali, quanti ne sono morti? Ho smesso di contare tra i soldati cernobianchi che parlavano una lingua sconosciuta. Vediamo anche, continuiamo sulle pagine della Repubblica, pagina 15, e sempre sulla guerra, il Papa chiede la tregua e Kirill lo ignora, uniti contro i nemici. Questa è la notizia a pagina 15. E poi porto a Kiev l'abbraccio di Bergoglio, sta tentando con tutte le sue forze di porre fine a questa guerra. È l'intervista alle lemosiniere del Papa, sempre sulle pagine di Repubblica. E il Vescovo, come leggevamo prima sulla stampa, viene riportata la notizia anche sul Resto del Carlino, a pagina 6, torture in una chiesa ortodossa, la denuncia del prelato a Kiev, ma il patriarca di Mosca continua a sostenere la guerra di Putin. Il Papa ora una tregua pasquale. E infine a pagina 7 del Resto del Carlino, la NATO vuole blindare i confini in un esercito stabile nell'est Europa. Il segretario Stoltenberg annuncia un vasto piano per accrescere la linea difensiva vicino alla Russia. Allora veniamo ai Pink Floyd, perché per aiutare la popolazione ucraina ha creato questa nuova canzone riunendosi con Hey Hey Rise Up. Pink Floyd, Hey Hey Rise Up. E, bene, procediamo allora con, già leggeva prima Amalia, il viaggio di Draghi in Algeria alla ricerca di nuovo gas, il commentato anche da Marco Galluzzi, inviato del Corriere ad Algeri. Draghi nella capitale per il gas, Di Maio stop per i catirucci ed scontro con Mosca. Oggi sarà firmata l'intesa col paese africano, porterà 9 miliardi di metri cubi in più di metano all'Italia, da quasi 30 miliardi già dal prossimo inverno, anche se c'è chi dal domani dice attenzione, perché l'Algeria è un paese con molto instabile, con una fortissima rivolta popolare in corso, quindi è tutt'altro che una scommessa sicura. Ma leggiamo allora tutte le, poi le, i bluff o le contraddizioni, se vogliamo essere più eleganti, presenti in questo rapporto Russia-Occidente col gas, a partire che anche la stessa Ucraina compri il gas da Putin e paga il noleggio dei tubi, quindi vedete come il business viaggia anche differenziato dalle bombe. Comunque, intervista al ministro delegato di Naftogaz che arriva da Report, la trasmissione del lunedì sera: gas verso l'Europa ma interrotto, Mosca continua a pagarci. Bloccare il transito è una decisione politica che spetta all'Unione Europea, dice questo esponente di Naftogaz. Nel frattempo, extra profitti esultano, Mediolanum e fondi nordamericani, guarda un po' chi ci guadagna dalla guerra. Dal prelievo di una tantum del 10% sugli extra profitti delle società che in Italia vendono elettricità, gas, metano, gas naturale e che commerciano prodotti petroliferi, ne è atteso un gettito di circa 4 miliardi. E tra le aziende chiamate a sostenere l'intervento ci sarà Eni, il colosso degli idrocarburi, è cosa nota. Negli ultimi mesi, tre, dell'anno scorso, a parità di estrazione, ha moltiplicato i profitti grazie al balzo dei prezzi del gas. Per dare un'idea, Eni ha chiuso ottobre, novembre, dicembre con 2,1 miliardi di utili netti sui 4,7 miliardi totali dell'anno, che è il miglior risultato dal 2012. Quello che invece è meno noto ai più è che a sorridere per questi risultati non è solo la compagnia Eni, ma anche i suoi azionisti privati, che hanno già incassato dividendi milionari, così come lo Stato, che detiene il 30% di Eni. Al primo posto ci sono tre potenti fondi di investimenti americani: BlackRock, che porta a casa 116 milioni di euro, Vanguard 108 milioni e MassChart Financial Service e altri 53 milioni, mentre gli italiani, chi incassa di più è Mediolanum della famiglia Berlusconi con 19 milioni di euro. Quindi vedete che le bombe non è che fanno proprio schifo a tutti, c'è qualcuno che dice beh insomma quasi quasi, questo è quello che arriva da qualche nota del gas, dal gas che arriva dal Fatto Quotidiano, che più avanti va coi sondaggi, cosa ne pensano gli italiani sul conflitto, altro che condizionatori, ricordate Draghi, o condizionatore o pace. La gente ha paura della crisi. Per molti italiani è il lavoro che va a farsi friggere. E infatti, se andiamo sul domani, abbiamo anche l'elemento che riguarda l'intervento del segretario di Legambiente, che dice che bisogna fare serve un decreto contro la povertà energetica. Edoardo Zanchini, che è appunto vicepresidente dell'associazione ecologista, della serie pace o condizionatore, ci sarà attenzione da un lato alle imprese che rischiano di trovarsi con i prodotti non più competitivi e a chi è più povero. I rincari di prezzi di generi alimentari e bollette non hanno infatti per tutte le famiglie gli stessi impatti. Per questo, dopo tanti decreti omnibus per far fronte alla guerra in Ucraina, è tempo di un provvedimento dedicato alla povertà energetica, ossia a come aiutare coloro che dopo i rincari di questi mesi devono scegliere quali servizi essenziali tagliare e che condizionatore se lo sognano. Nel 2019 erano oltre 2,2 milioni di famiglie in difficoltà a pagare le bollette di luce e gas, ma nella pandemia la povertà in Italia è cresciuta ed è il momento di occuparsene in modo serio, dice appunto quell'intervento del domani. Poi andiamo appunto alla Gabanelli, che nel suo classico data room del lunedì sul Corriere, la sera sulla 7, sanzioni alla Russia e costi per il Cremlino, l'export di Mosca tagliato del 7%, l'import del 12%, triangolazioni con Armenia e Kazakistan beni congelati agli oligarchi, liste differenti per USA, Regno Unito e Unione Europea. D'altra parte però si intervista il leader della Russia, arriva il leader della Russia all'Ucraina, in realtà il leader dell'Ucraina Kubrakov, ministro di infrastrutture ucraino: strade e ferrovie una su tre distrutta, ma siamo ancora il granaio del mondo, questo è il 90% del grano è salvo. Questo però non serve, non è stato sufficiente a non fare schizzare i prezzi in alto per affamare con l'inflazione l'Europa occidentale e per lasciare in siccità e morte di fame i paesi poveri dell'Africa. Allora Guido Fontanelli da Milano, dal Domani, addio alla globalizzazione, i generi alimentari, la guerra si sposta sul grano e l'autarchia del cibo torna di moda. Allora, sulla stampa, pagina 15, il risico del gas, la sfida dell'energia nel Mediterraneo, Draghi oggi ad Algeri, il paese nordafricano rompe con la Spagna e si lega all'Italia. Roma si inserisce in una crisi diplomatica aperta dopo l'accordo di Sanchez con il Marocco. E poi per il governo Di Maio, ricattati dai russi, mentre Mosca replica fa confusione. Botta e risposta sui pagamenti in rubli, la Farnesina, tutelati i cittadini. Si riaccende lo scontro di distanza tra la Farnesina e il governo russo dopo la durissima reazione del Cremlino agli attacchi del ministro degli esteri Luigi Di Maio, che la settimana scorsa aveva definito Vladimir Putin un animale in seguito al massacro di Bucha. E per quanto riguarda la politica, poi Letta avanti con le sanzioni, la Lega ora torna prudente, linea dura del leader Dem, i dubbi di Zaia, così non reggiamo a lungo. E poi l'intervista sempre sulle pagine della stampa a Manlio Di Stefano, il rafforzamento della NATO a est non compromette i negoziati. Il sottosegretario, dal 2014 la Russia è involuta, i 5 Stelle sono euroatlantici. E per quanto riguarda poi invece le ultime notizie riportate sulla stampa, io la nipote di Tolstoj, io ospito due profughe ucraine, questa è l'intervista a Marta Albertini. E poi così cambiamo gli equilibri, la geopolitica planetari, Biden spinge Mosca verso la Cina, l'esclusione della Russia dall'Europa conferma le profonde divisioni culturali, nasce un continente nuovo con l'Italia spaesata che segue Berlino e Parigi. E allora siamo scivolati proprio nella politica italiana, che è in fibrillazione, perché nei giorni scorsi, in particolare sui giornali a destra tipo Il Tempo o Libero, si vociferava la voglia di Draghi, si diceva anche prima, di uscire dal governo, andare verso le elezioni anticipate quest'estate, magari in attesa di una carica di segretario generale della NATO. Questo spiegherebbe anche il bellicismo d'oltranza di Draghi, però ci sono chiaramente illazioni. Quello che invece non sono illazioni è la fibrillazione continua che si è aperta nel blocco di governo e della sua maggioranza. Cominciamo con Giovanni Bianconi, che parla appunto di questi temi dal Corriere della Sera. Giustizia, accordo a rischio, ma Cartabia tratta è la riforma del possibile. I 5 Stelle dicono: chiudiamo solo se c'è un chiarimento politico. Questo è mentre Conte dice Draghi servono altre risorse. Il capo dei 5 Stelle: tassazione al 25% per gli extraprofitti delle aziende dell'energia. Ancora questo si lega ancora come tutto alle spese di guerra. E sulla guerra, questo viaggio ad Algeri, dove sta andando la stampa, appunto, la famosa Unione Europea Unita, c'è l'Italia che sacrifica la Francia grazie agli litigati dell'Algeria con il Macron e sul Marocco, questa sarebbe l'unità dell'Europa. Comunque Mario Africano, così definito da Massimiliano Scaffi dal Giornale, dribbla trappole interne ed esorcizza le urne. Fitta agenda di Draghi alla ricerca del gas. Letta e Salvini garantiscono la legislatura, ma noi sappiamo che quello che si dice a voce conta veramente poco. Mosca accusa Di Maio. È l'Unione Europea a ricattarci con sanzioni e aiuti a Kiev. I timori del Nazareno, cioè del PD, va bene discutere, ma fino a un certo punto qualcuno vuole il voto. Siamo già al gioco del cerino che gli italiani conoscono perfettamente. Sarà Pasqua, abbiamo la risurrezione della carne, Berlusconi torna a vedersi in persona al suo massimo vertice di Forza Italia. Ed eccolo qua con le solite foto di circa 20 anni fa, stampate sul giornale, e con Gianmaria De Francesco che scrive: svolta economica azzurra, stop tasse e più energia. E quindi c'è e più pelo per tutti, verrebbe da commentare. I leader di Forza Italia impone una riflessione sul fisco e sul nucleare, e il governo cambia i bandi del PNRR. Questo, allora, questo c'è un pagione doppio dedicato a Berlusconi in questo suo trionfo, rentrée trionfale. Via il centrismo atlantico, Salvini elogia il cavaliere, l'entusiasmo del partito, proprio sono, erano lì che sprezzavano già anche dalle orecchie. Il leader non statista, il leghista ammette, è il perno del centrodestra.

allargamento delle autostrade, dovremmo assorbirci altri 3 o 4 anni di lavori per l'installazione degli altoziti. È un modo di procedere, secondo me, un po' paradossale. Cioè, dobbiamo smettere, secondo me, con questa logica del fare danni e poi fare la rincorsa alle mitigazioni. Dobbiamo evitare assolutamente di fare danni. Come rete delle lotte ambientali bolognesi avete diverse iniziative anche contro il passante, quali saranno le prossime? Dunque, intanto veniamo da una regione molto significativa che è passata anche dalla manifestazione di Firenze con il collettivo GKN, dal sciopero globale dei Friday for Future del 25 marzo, quindi del 5, 26, 27. Il 27 abbiamo fatto un'assemblea metropolitana sul passante di mezzo. Stiamo cercando di raccogliere il più possibile forze attorno all'opposizione al passante per andare nel prossimo futuro a fare iniziative sempre più incisive di informazione innanzitutto alla cittadinanza, e quindi prevediamo di fare degli incontri nei quartieri interessati dal passante per spiegare alla popolazione che quello che racconta Autostrade per Italia, che ci racconta una comune ragione, non è la verità sul passante, la verità è un'altra, e cercheremo di fare iniziative sempre più incisive. E quindi il prossimo appuntamento, il primo che diamo, è per il 25 aprile, quindi noi andremo a celebrare la nostra resistenza a questa invasione d'asfalto e cemento e l'inquinamento che non possiamo più tollerare. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. La cronaca ci parla di piccoli omicidi, quelli che vengono chiamati per motivi risibili ma che portano alla morte. Un ragazzo di 19 anni è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in una rissa sfociata in un accoltellamento venuto ieri sera nel quartiere Leopardi a Torre del Greco, siamo nel napoletano, leggiamo da un flash d'agenzia di questa mattina. La vittima viene raggiunta da una coltellata al cuore, mentre l'amico e coetaneo che era colui è ricoverato in gravi condizioni in ospedale ma non in pericolo di vita. Fermati gli altri protagonisti della tragica rissa, due minorenni di Torre Annunziata a causare la lite, sarebbe stato motivi futili legati ad una festa. Sempre motivi futili sono quelli che da Napoli ci spostano a Ferrara, a Pescara. La lite perché aspettava troppo, spara al barista del ristorante. Succede a Pescara, raccontato dal Corriere con Andrea Pasqualetto. Pescara, 23enne, colpito dal torace del collo, è gravissimo, l'uomo poi è fuggito. Nei filmati si vede, sulle telecamere di sorveglianza, si vede il ragazzo che cerca di nascondersi dietro al bancone, ma chiaramente inutilmente. Poi abbiamo il Covid, il virus rallenta in Europa, meno casi poco gravi. Questa è la descrizione che dà Enza Cusmai dal giornale. Il rapporto ECDC, la recente recrudescenza frena i contagi, non sfociano in malattie significative. Rispetto alla settimana fa, meno contagi, meno decessi, dubbi sulla quarta dose data appunto dagli ultraottantenni. Mentre altri dubbi li esprime la Antonella Viola, immunologa dal Corriere. Un errore togliere le mascherine FP2, efficaci anche contro Omicron. Guariti e vaccinati rischiano l'infezione. Sì, la quarta dose, i dubbi degli anziani sulla stampa, pagina 22, pronti a ripartire con over 80 e fragili, ma i medici lanciano l'allarme, la fiducia nei vaccini è in calo e vertigini o perdita di gusto e olfatto, come riconoscere le nuove varianti, il virogolo, pregliasco, la maggior parte dei sintomi è la stessa, sono simili all'influenza. E andando anche sulle pagine di Repubblica, Zurigo, Novax rapisce l'esperto dei vaccini e la polizia lo uccide. Il sequestratore, un 38enne tedesco, faceva parte di una setta terrapiattista, nel conflitto a fuoco è morta anche la fidanzata. Il medico dice che ha chiesto soldi. E a pagina 23 sempre di Repubblica, poi ci sono le conseguenze della pandemia, respiro corto e dolori che tornano, il virus arretra ma è allarme long covid, l'OMS 1 su 4 di nuovi sintomi a un mese dalla guarigione, e viene varata una rete di ospedali sentinella per monitorare il fenomeno e redigere un protocollo unico per le cure. E infine il Domani e il Fatto Quotidiano. Il Domani apre col volto di Attanasio, questo ambasciatore italiano assassinato in Congo. I misteri sulla morte di Attanasio. L'omicidio è data 2021. Dalle carte dell'inchiesta italiana sulla guata all'ambasciatore in Congo si scoprono arresti misteriosi, nuove piste di una storia tutta da riscrivere. E girando pagina, come si dice anche dallo scroscio di carta, la storia della morte di Attanasio è da riscrivere, dice appunto questo intervento dal Domani. lo scorso 8 febbraio è stato chiuso il fascicolo di indagine aperto a Roma sull'uccisione dell'ambasciatore del carabiniere Iacovacci. Dalle carte emerge la notizia di alcuni arresti misteriosi e di piste mai approfondite. A pesare anche la scarsa collaborazione delle autorità congolesi. Nonostante i viaggi in Italia del presidente Tshisekedi, si sa ancora molto poco. Più esplicito invece è il Fatto Quotidiano, che scrive: Attanagio fu vittima di un complotto di militari congolesi, quindi smentito il tentativo di sequestro finito male. Forze armate e servizi segreti, l'ambasciatore italiano ucciso nel 2021 con un carabiniere autista, quattro testimoni scanditi dal Fatto riscrivono la storia dell'agguato. Quindi Attanagio un po' con Mirano, Ilaria Alpi, Miran Hrovatin, cioè hanno messo i piedi laddove non dovevano, hanno pagato con la vita il coraggio e il loro mestiere. Con questo noi siamo arrivati in fondo e siamo come sempre al podcast. Ah, signora mia, il commento del giorno, un podcast di Radio Città Fuscico. Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso? Sono le parole con cui Mario Draghi, presidente del Consiglio italiano, esponente di nessun partito, votato a nessuna elezione, ma messo lì da un blitz di Matteo Renzi e Sergio Mattarella, ha posto la delicata questione della dipendenza italiana dal gas russo, che si lega all'altra intricatissima questione della guerra in Ucraina. In altre parole, secondo Draghi, la soluzione per arrivare alla pace in Ucraina sarebbe che noi, brutti cattivoni che non siamo altro, rinunciassimo al vizio di stare al fresco in estate, tra l'altro in un clima sempre più rovente e surriscaldato dal modello di sviluppo voluto da Draghi e i suoi amici in tutto il mondo. Vediamo però di mettere in fila gli elementi che hanno generato il problema. Il primo è senza dubbio quella cosa chiamata globalizzazione, che ci è stata venduta come il più bello dei mondi possibili, salvo poi renderci conto che le frontiere erano aperte ai soldi e alle merci, ma chiuse alle persone. Non solo, è proprio il combinato disposto di globalizzazione e modello di sviluppo ad aver fatto in modo che gli stati diventassero dipendenti gli uni dagli altri per quanto riguarda le fonti fossili, su cui è incentrato il business del mondo. Quando qualcuno proponeva di pensare ad altre forme di approvvigionamento energetico, magari più ecologiche e rinnovabili, gli veniva dato del fricchettone ridicolo, perché mai l'eolico, l'idroelettrico o il fotovoltaico avrebbero potuto sostituire petrolio e gas. Quelle stesse persone, poi, di fronte a un mondo in rovina per il cambiamento climatico e in difficoltà per la contesa con la Russia, ora dicono che è necessario accelerare sulle rinnovabili e lavorare per una maggiore sovranità energetica che fino ad oggi ci era proibita per garantire i profitti delle multinazionali. Secondo elemento per capire a che punto siamo. Nella maggioranza che sostiene Mario Draghi ci sono ex presidenti del Consiglio ed ex o attuali ministri che hanno fatto affari con dittatori e regimi autoritari per i propri comodi, come impedire che i flussi migratori giungessero in Europa o arricchirsi con la vendita di armi, anche quando già sussisteva un embargo perché il dittatore di turno aveva già mostrato chiaramente di essere tale. Che fossero spenti o accesi i nostri condizionatori, ma poi avercene se sei un proletario, la minaccia alla pace era incarnata dalle loro scelte, non dai nostri comportamenti. Più in generale, Draghi e i suoi colleghi a livello internazionale depredano paesi per ottenere materie prime o utilizzare la loro manodopera a basso costo, riducendo alla fame le loro popolazioni, salvo poi impedire che quelle si spostino per cercare un futuro migliore, ma lasciando che si scannino fra loro per avere accesso a un minimo di benessere. Al contempo, i capi di Stato e di Governo stringono alleanze, costruiscono basi militari e mettono in atto altre provocazioni geopolitiche che fanno alzare la tensione. Inviano armi sostenendo che condurranno più facilmente alla pace, ma lasciano anche morire centinaia di migliaia di persone per una pandemia dopo aver distrutto la sanità pubblica. Non destinano un euro per rimediare, né per risolvere altri problemi strutturali come le scuole che cadono a pezzi, ma ci mettono pochissimi minuti per votare l'aumento di miliardi di euro per la spesa militare. Fanno tutto questo e, felicemente sorpresi dal fatto che non li abbiamo cacciati a bastonate, si spingono oltre facendoci credere che il problema ora è rappresentato dai nostri condizionatori. Se ha un minimo di dignità, Mario Draghi dovrebbe chiedere scusa agli italiani e dimettersi. Ah, signora mia. Il commento del giorno, un podcast di Radio Città Fuscico. Questo programma è stato offerto da... Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.